24 di Giovanni Minoli. Ai migranti cibo buono solo per i maiali, per loro mafiosi, ville di lusso, cinema, barche, teatri. Il blitz scatta nella notte con numeri da grandi occasioni, 68 fermi e ben 500 uomini tra carabinieri, polizie e guardie di finanza per colpire al cuore le cosche del crotonese. Degli oltre 100 milioni di fondi pubblici destinati alla gestione dell'emergenza profughi, più di 30 sarebbero finiti nelle mani del clan Arena Potente, cosca dell'Ndrangheta. Il segnale è che di fronte all'Ndrangheta tracotante c'è un'organizzazione dello Stato che, se fa squadra, riesce a ottenere risultati forti. Buongiorno, bentornati a Mix24, buongiorno al procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, protagonista di questa storia che abbiamo accennato in sintesi. Dottor Gratteri, questa volta lo Stato ha fatto squadra. Sì, io sono qui a Catanzaro da un anno e finalmente sono riuscito a mettere attorno a un tavolo il meglio della polizia giudiziaria anche italiana, e quindi fare questa indagine molto complessa, perché servivano le specializzazioni, ad esempio del ROS, serviva la specializzazione della Guardia di Finanza per quanto riguarda l'aspetto contabile, quindi non poteva essere un'indagine fatta con una sola forza di polizia. E quindi questa volta lo Stato ha fatto squadra, e quando è organizzato per fare squadra colpisce bene. Sì, è fondamentale la sinergia, è fondamentale soprattutto dare dignità e far sentire tutti importanti. Questo è il segreto per fare il lavoro assieme. Quindi una squadra super efficiente, sì. Da ringraziare tutta, ecco. Sì, certo. Dunque, insomma, adesso sappiamo che l'Ndrangheta è leader anche nell'accoglienza dei migranti, è così? Sì, purtroppo le mafie ormai ci hanno insegnato, la storia giudiziaria ci ha insegnato che le mafie sono presenti dove c'è da gestire denaro e potere, nullo escluso, quindi anche fa business, fa affare sui bisogni dei disperati, come in questo caso. Ecco, dove, prego. No, dove lucra anche sul mangiare, sulla qualità del cibo, sul cibo. La cosa che mi ha impressionato è vedere il filmato quando l'ha detto alla mensa, mentre c'erano questi extracomunitari in fila, a un certo punto fa il segno con la mano che è finito il mangiare. Quindi questo disgraziato, se gli va bene, mangerà poi la sera, salta il pranzo, salta la cena perché Non può mangiare. Mentre noi abbiamo documentato all'euro che l'Ndrangheta ha incassato 36 milioni di euro su 102 milioni di euro per il CARA di Isola Caprizzo. Ecco, senta, procuratore, ma l'Ndrangheta, dicevamo, è leader nell'accoglienza dei migranti, ma solo interno o anche in mare? Solo su terra, al CARA, oppure piano, anche in mare? Sul piano documentale, sul piano probatorio, noi parliamo terra, nel senso che noi vediamo, documentiamo anche come l'Ndrangheta, che è molto interessata all'agroalimentare, molto interessata a comprare latifondi attraverso anche prestanomi, pensando alle truffe alla Comunità Europea, regione. Cioè anche l'agroalimentare è diventato un oggetto. Ecco, ma quello che è venuto fuori è abbastanza impressionante, perché si immagina che poi sia anche quasi una punta di un iceberg. Ma i complici istituzionali chi erano, oltre a quelli che abbiamo visto in qualche modo? Capo Rizzuto era diventato una specie di isola del tesoro, diciamo. Sì, perché oltre per capire lo spessore di questa famiglia di 'Ndrangheta, immagini che noi 20 giorni fa gli abbiamo sequestrato il più grande parco eolico d'Europa, di un valore di 350 milioni di euro, per capire la consistenza economica di questa famiglia Arena, che ha anche una società a Malta di giochi d'azzardo online e che controllava anche la Polizia di Stato, ha fatto un altro pezzo di indagine, e questi controllavano anche i furti e del parco archeologico di Capocolonna, cioè i resti che ritrovavano poi li vedeva. Quindi, a 300, quindi il profilo di questa Cosca Arena è a 360 gradi. 360 gradi. Per tornare alla sua domanda, sì, su, per quanto riguarda gli aspetti istituzionali, le persone, questo è ancora è una parte da approfondire, perché ovviamente andavano fatti dei controlli amministrativi. Qui stiamo parlando di una storia che dura da 10 anni, non da un anno. Ecco, ma dura da 10 anni e viene fuori adesso perché lei ha messo insieme i pezzi? Guardi, non voglio prendermi meriti, però io sono un decisionista, io non mi alzo mai da un tavolo se non ho preso decisione, ascolto tutti, anche l'ultimo dei presenti deve parlare, voglio ascoltare tutti, però non mi alzo senza prendere una decisione, costi quel che costi nei confronti di chiunque. E quindi io, quando sono arrivato qui il 16 maggio del 2016, dopo 2 ore ho iniziato la prima riunione continua, perché volevo sapere tutto nel più breve tempo possibile di questa procura, e ho visto che questa era un'indagine non importante, importantissima. Ma era ferma? Era ferma, si stava lavorando, ma lentamente, diciamo. Non erano i ritmi che piacciono a me, cioè io sono un animale che deve c'è un obiettivo, dobbiamo arrivarci. Poi cioè, insomma, si stava indagando da 10 anni, ma con molta calma. Con molta calma, poi io in questi calcoli che io in questo anno io ogni settimana sono a Roma e col cappello in mano vado dal comandante generale dei Carabinieri, vado dal comandante generale della Guardia di Finanza, ora per fortuna anche la polizia mi sta mandando personale nuovo, di qualità, e quindi io vado in giro a cercare di costruire una squadra. Insomma, sta costruendo a Catanzaro una squadra che sia in prima linea ma molto capace. Questo sì, perché Catanzaro non è un posto allettante sul piano investigativo, perché sinora chi veniva a Catanzaro non faceva carriera. Ora invece il comandante generale del 7, il comandante generale della Guardia di Finanza stanno premiando anche chi ha già lavorato un anno qui e ha ottenuto risultati. E quindi diventa una tappa anche per fare carriera in qualche modo. E questo incentivo, hanno dato questo incentivo. È molto importante. E quindi ora sta arrivando gente di qualità e faremo cose ancora più belle di quelle di 2 giorni fa. Ecco, senta, all'interno della confraternita Misericordia che gestisce il centro, come nella procura si andava lentamente, anche lì tutti stavano un po' zitti? Ah, perché ci mangiavano tutti, e giovava a tutti, anche perché ad esempio è stata imposta la sponsorizzazione della squadra di calcio di Isola Caporizzuto, cioè c'era un indotto dove ci guadagnavano tutti e lì anche il parroco, insomma. Ma il parroco, guardi, il parroco è un attore protagonista di questa vicenda, non è una comparsa. Il parroco è uno di quelli che muoveva le fila. La cosa più innocua, più semplice che ha fatto il parco è stornare 136.000 euro che dovevano essere utilizzati per comprare i giornali ai migranti, e lui li ha utilizzati per assistenza spirituale ai migranti. Ah, ok. Senta, ma lucrava anche sulle forniture alimentari? No, lui lui partecipava in modo diretto all'organizzazione. Dalle sue mani sono passate centinaia di migliaia di euro. Lui era quello che organizzava assieme al Presidente della Misericordia. Era un connubio inscindibile, e queste società costituite appositamente per potersi aggiudicare subappalti, per potersi aggiudicare il catering per il CARA di Isola Caporizzuto. Ecco, e qui stiamo parlando di quello che capita sulla terra, però dottor Gratteri, proviamo a riavvolgere un momento il nastro del business dei migranti. Esiste chi ha interesse a portarli in Italia, ormai mi sembra caro, per alimentare questo business sia in mare che in terra? Guardi, io sul piano probatorio non lo posso sostenere questo, io mi attengo a quello. Ma come esperienza, insomma, voglio dire, sembra una deduzione logica, diciamo, in qualche modo. Lo so, però non vorrei fare la fine. No, ma perché lei non vorrei fare la fine di Zuccaro. Sì, però le prossime settimane me la passo nelle varie commissioni per essere sentito. Però dottor Zucca, dottor Gratteri, le faccio risentire quello che mi aveva detto lei qualche settimana su Zucca, vedrà che insomma, senta un po'. Ecco, dottor Gratteri, ma il rischio di una collusione tra qualche ONG e gli scafisti secondo lei c'è? Andare ad inventarsi di sana pianta, una cosa del genere, non è da procuratore Zucchero. Io conosco il procuratore Zucchero, è una delle persone più serie che ci sono in magistratura, e oserei dire un gentiluomo. Ecco, sono passati pochi giorni e le parole di Zucchero sono diventate realtà, no? Sì, sono diventate... Io confermo quello che ho detto su Zucchero pochi giorni fa e sono convinto... Cioè, lui nutriva sospetti e poi dopo sì. I sospetti si sono rivelati in qualche modo veri. Sì, certo, e nella sostanza si è rivelato che alcune di queste... Naturalmente, anche, certo. Sì. Perché sono alcune di queste ONG si è visto che erano in contatto, con alcuni erano in contatto con gente che stava in Libia, quindi sicuramente non chiedevano che tempo... il tempo, se c'era il sole pioveva. Ecco. Sicuramente parlavano di punti nave, dove incontrarsi e quando sbarcare, non c'è dubbio su questo. Ecco, oggi... allora, però la cosa che su questo che lui che Zucchero dice sia in modo esplicito che implicito, io ho degli elementi o degli indizi o delle prove che sul piano processuale non posso utilizzare. D'accordo. E allora vediamo quali sono dal punto di vista processuale gli intoppi, il perché non si possono utilizzare, il perché non si comincia a pensare ad esempio di utilizzare i servizi segreti, l'AISI, l'AISE, come agenti sotto copertura che lavorino anche con la polizia giudiziaria, perché non si può andare oltre, perché questo patrimonio, perché questo potenziale dei servizi segreti non lo si utilizza. Cioè, io vedo una macchina come imballata, c'è una macchina che non lavora. Cioè, lei dice abbiamo degli strumenti in più che sono formidabili e che potrebbero integrare nel lavoro quello che già si fa e potrebbero aiutare processualmente a trovare delle... Manda 50 uomini dei servizi e infiltrali in Libia, infiltrali mandali nel Centrafrica da dove partono questi flussi di migranti. Vediamo chi organizza i viaggi dal Centro Africa alle coste della Libia, prima ancora che la Libia, oltre che ovviamente naturalmente l'Europa che fa parte dell'ONU ed è una grande fetta di potenza dell'ONU. Perché l'ONU non interviene? Perché io ad esempio ho proposto l'altro giorno, mandiamo le imprese italiane con un sesto della spesa di questo pessimo servizio taxi che c'è, e mandiamoli nel Centro Africa a costruire aziende agricole. Naturalmente. E quindi in questo modo rallentiamo. Cioè, proviamo a risolverlo all'origine il problema. All'origine, ecco, con però un terzo della spesa. E allora mi è stato detto, sì, ma lì è pericoloso perché c'è la guerra e perché ci sono le bande. Dico, scusatemi, allora l'ONU, che premesso che è un organismo debole, ci mancherebbe altro, è sotto gli occhi di tutti ogni giorno perché il mondo è comandato da 3-4 stati. Premesso questo, però, benedetti Dio, tutta l'Europa, siccome è un problema dell'immigrazione dell'Europa, io tutta l'Europa la vedo lì all'ONU, coesa, che dice un attimo, fermiamoci un attimo, finiamola di fare filosofia. E passiamo noi ai fatti, Mandiamo i baschi blu nel Centro Africa e proteggiamo le imprese europee che vanno lì a costruire. Senta, oggi il giornale della CEI, L'Avvenire, dà una notizia interessante. Dice che il 50% dei salvati di quest'anno sono stati salvati da navi private. Ecco, questo significa che la parte benemerita è ovvia, ma se il 50% sono navi private, è possibile che anche lì ci siano infiltrazioni? Questo è da accertare, non posso affermare. No, ma certo che, certo che è da accertare, però dico, dato che lei è un osservatore attento... Osservatore attento, però devo anche stare attento a quello che dico, cioè io devo dire quello che posso dimostrare, no? Certo. Perché se no domani mattina mi mangiano, tutti i pensanti mi mangiano. Senta Gratteri, ieri in Parlamento si è parlato dell'opportunità di creare un corridoio umanitario per i migranti e si può dire che quello creato parallelo è una sorta di corridoio illegale? Sì, questo l'ha detto anche il Parlamento ieri. No. Sì, corridoi umanitari, ma non ho capito e poi alla fine tu crei questo corridoio umanitario, ma poi cosa accade? Cioè fra 5 anni, fra 6 anni, siccome i flussi migratori non finiranno domani mattina, certo che no. né il 31 dicembre del 2017, benissimo, e allora fra 5 anni possibile che la politica pensa a fa questi progetti dall'oggi al domani, da di mese in mese? Non è possibile che non ci si metta in testa che questo problema che riguarda tutto il mondo occidentale, questo fatto questo umanitario. Ma poi è strategico, naturalmente è un problema da affrontare in modo strategico e permanente, non può essere... Mi fa il corridoio e dopo che le hai parcheggiate in Italia? Nelle varie stazioni. Ma lei, lei ha parlato della Libia, ne ha parlato bene, dicendo è là che bisognerebbe intanto lì anche prima intervenire. Ancora più sotto. Ecco, ma il ministro dell'interno italiano Minniti ha riunito tutti i capi tribù libici per accordarsi con loro. Ma è mai possibile pensare di fare un accordo con 20, 30, non so quanti erano i capi tribù? Ma siamo sicuri che erano tutti. Ah, forse non erano neanche tutti. E erano tutti, perché continuano a partire? Mi sembra una domanda assolutamente lecita. E secondo lei qual è la strategia con la Libia allora? Ma intanto certo questi tentativi vanno fatti, queste cose anche con Gheddafi erano stati fatti. Ma con Gheddafi con qualche successo in più? Sì, la fretta più importante era quella di ucciderlo. E poi abbiamo visto il risultato. Infatti. Dopo aver ucciso Gheddafi è tornata la democrazia all'improvviso. Sì. In Libia. Cioè, voglio dire, c'è sempre questa idea del mondo occidentale, della colonizzazione, questa certo, è la verità. Non si esce da questa cultura. Da questa cultura, che noi dobbiamo andare fuori e imporre il nostro modello occidentale, pensando che il nostro modello sia il migliore, che noi siamo la culla di civiltà del mondo, che la nostra, il nostro modo di vestirci, di parlare, di vivere è il migliore al mondo. Senta, dottor... Andiamo lì con la violenza a imporre le cose, ecco perché poi le altre culture, le altre etnie ci odiano. Senta, dottor Gratteri, ma se la testa del traffico è sempre più chiaro, anche grazie alle vostre indagini, è in Calabria, ci sono ipotesi di rapporti con la politica? Con la politica intende nazionale? Sì, naturalmente. Non nel senso diretto sul traffico, però è ovvio che noi abbiamo da tanti anni ormai abbiamo le prove che l'Andrangheta vota e fa votare, e tutti i centri di potere servono e sono funzionali a raccogliere pacchetti di voti, quindi in Calabria c'è. Certamente è importante questo. Ma anche se non in modo ovviamente sistematico, no, certo. Vogliamo generalizzare, perché se generalizziamo facciamo no, è un errore, però esiste questo problema, certo. Sì. Senta, si è parlato di Leonardo Sacco, è lui il protagonista dell'intreccio? Sì, è l'attore protagonista, perché lui è il presidente della Misericordia. Senta, vorrei fare una domanda a raggio un po' più largo. Adesso è esploso il caso delle intercettazioni tra Renzi e suo padre, conversazioni private finite sui giornali. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per capire come è potuto capitare una violazione così macroscopica del segreto istruttorio tra Roma e Napoli. Prima c'era guerra, adesso sembra che ci sia un inizio di collaborazione. Ecco, ma al di là del fatto specifico, i rapporti tra magistratura e politica sono finiti di nuovo al punto più basso possibile? Ma io non vedo questo problema generale, rapporti magistratura politica. No. Io vedo uomini. Uomini. Uomini. Cioè io non, la magistratura non è tutta una. Cioè non la esiste la magistratura, esatto. Non esiste un blocco, una guerra, magistratura, magistratura politica o magistratura polizia giudiziaria. Ognuno risponde alla propria azione. Ci sono 3-4 che possono essere infedeli, che non fanno il loro lavoro e come quindi si è visto, creano danni di immagine, di credibilità, c'è un danno anche molto grave, molto grave. Senta, per esperienza, sì. Quando c'è una violazione, quando c'è una fuga di notizie, quasi sempre la fuga di notizie esce o dalla procura o dalla polizia giudiziaria. Certo. E in genere quando la polizia giudiziaria fa la fuga di notizie c'è quantomeno una sorta di silenzio assenso da parte della procura. Se no le notizie non escono fuori. Un ufficiale di PG non mette in gioco la carriera se non sa che il suo sponsor Cioè, quindi il rapporto col magistrato è determinante. È fondamentale ai fini della sua carriera, quindi lui sa che si brucia o può essere promosso se fa una bella quindi indagine. Quindi se c'è la fuga di notizie, alla fine la responsabilità, la scelta in qualche modo, oppure la distrazione se vogliamo essere... Ma io guardi, avevo fatto due cose. Uno, avevo spiegato sul piano tecnico, perché un po' di esperienza in 30 anni di intercettazione, perché io quando ero a Reggio Calabria ho creato la prima sala di intercettazione col sistema digitale, la sperimentazione con le prime società l'abbiamo fatta a Reggio Calabria, poi hanno affittato il prodotto a tutte le procure d'Italia, e un po' di esperienza ce l'ho, io appunto. Ho visto la tracciabilità, io è possibile, io posso dimostrare. Ecco, ma che consiglio dà avendo tutta questa esperienza? Allora guardi, intanto sul piano probatorio io posso dire l'intercettazione è un fallo, è una canzone. Sì. Quando lei scarica da internet una canzone, lei lascia traccia. Mm. Io posso controllare l'ora, il minuto, il secondo in cui lei ha scaricato quell'intercettazione, quel disco, quella canzone. La stessa cosa in intercettazione. Quando lei dal server scarica dal suo computer, perché io nel mio PC posso ascoltare anche 40-50 telefoni contemporaneamente. Quando io quel file audio lo scarico su una pennetta USB, nel mio computer resta traccia. E siccome in ogni sala intercettazione d'Italia, di ogni procura, c'è un responsabile di sala ogni giorno. Ed è un magistrato? No, è un ufficiale di polizia giudiziaria. Che però risponde a un magistrato. Risponde al magistrato, perché il procuratore è responsabile della sala intercettazione. Infatti la norma dice che la sala intercettazione deve essere presso la procura. E allora io vado e vedo esattamente quando... Chi l'ha scaricato se aveva il permesso in qualche modo. Dirà, l'ufficiale di PG dirà, me l'ha chiesto il procuratore, benissimo. Esatto. Hai una ricevuta? No, e allora rispondi tu intanto. Certo. Quando tu becchi due, tre così, finisce il gioco. Il gioco finisce, non si fa perché si gioca l'ipocrisia. Ma poi io, nel mio progetto di riforma della mia commissione... Sì, perché so che lei aveva fatto questo progetto. Io ho previsto una rivoluzione nell'intercettazione. Avevo dato maggiore possibilità di intercettare alla polizia giudiziaria e alle procure. Avevo tolto la differenza tra possibilità di intercettare tra procura ordinaria e DDA... sia come termini, sia come gravi indizi e sufficienti indizi, passando, quindi maggiore possibilità di acquisizione della fonte della prova. Ma più responsabilità il divieto. Divieto, certo. Di pubblicare intercettazioni che non c'entravano nulla col corpo del capo di imputazione. Ecco, ma per esempio, scusi procuratore, per esempio, il traffico di influenze non può essere intercettato. No, perché il traffico di influenze, bisogna vedere però per quale tipo di reato. Cioè, se ci fosse qualche altro di reato sottinteso. Ad esempio corruzione, concussione. Certo, per questi reati si può intercettare, anche se non c'è l'aggravante mafiosa, anche se non c'è l'articolo 7 dell'aggravante mafiosa, si può intercettare. Però il problema è poi valutare il pubblico ministero. Poi il giudice con udienza poi deve valutare ciò che è utilizzabile meno a fine però assumendosi la responsabilità personalmente di dire quindi dice, sono ma io noi... che l'ho dato, cioè il senso è questo: sapere chi ha dato i materiali ai giornali, questo è il tema. No, faccia nome e cognome, e quindi uno si assume la responsabilità nel bene e nel male. Sì. Però di questa riforma nessuno ne ha voluto tenere conto, forse oggi qualcuno se ne pensa. Forse ci arriviamo. Non lo so, ancora non vedo maggioranza in Parlamento. Lei pensa che non si riuscirà ad uscirne e resteremo in questo caos? Non vedo maggioranze forti in questo momento. Grazie procuratore Gratteri. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, senti, mi sembra che il procuratore ci ha fatto un'analisi precisissima, no? Sì. Ha detto le cose concrete e ha detto le intercettazioni bisogna arrivare a chi le decide, chi le dà e si assume la responsabilità di darle. Sì, perché... anche perché se no finiscono per fare le leggi come le hanno provate a fare finora, e cioè punendo i giornali. Sì, ma che non ha senso, no? Cioè, voglio dire, è chiaro. Tanto escono comunque. No, Tanto escono comunque così, quindi non ha senso. No, devi colpire la fonte. Senza responsabilità. Certo, quello è il punto. Quindi è la fanno tutti i danni o le chiarezze necessarie, ma nessuno è responsabile. Certo. E poi tu non puoi pretendere che un giornale, una volta che le ha avute, non le pubblichi. No, cioè, ma quello non abbiamo neanche parlato, perché è evidente. No, ma... Sì, evidente, il Parlamento ha questa idea. Il Parlamento non ha l'idea di fermare il flusso, ha l'idea di fermare la pubblicazione. Sì, sì. Mi sembra che quello detto Gratteri è abbastanza preciso. Cioè, lui sì. No, lui nel sì, senso che il Parlamento no, quello è il punto. Ma questo, questo lo vedremo. Hanno fatto molte cose. Va bene, intanto oggi abbiamo un blob da sentire e andiamo a casa. Well. Eh bien, cette année, Palme d'Or, la Palme d'Or revient à Daniel Blake. I, Daniel Blake. Merci. Merci à tous. Her hair is hollow gold. La giuria internazionale che assegnerà la Palma d'Oro alla 70ª edizione del Festival di Cannes, sotto la guida del presidente Pedro Almodovar. Ci saranno il regista coreano di Oldboy, Park Chan-wook, la regista francese Agnès Jaoui e la tedesca Mare Nade. A rappresentare il cinema italiano ci sarà il regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Ci sarà l'Italia in concorso per la Palma d'Oro al 70esimo Festival di Cannes, ma sulla Croisette dal 17 al 28 maggio Sergio Castellitto porterà il suo nuovo film Fortunata. Gli operai sistemano sul Palais du Cinéma l'enorme manifesto sul quale campeggia una giovanissima Claudia Cardinale. La foto del 1959 è stata ritoccata per l'occasione con Photoshop e subito sono scattate le polemiche. Allora, Pascal Vicenomi, giornalista, fondatore dell'Istituto Capri nel Mondo, ideatore di Capri Hollywood, e appunto a Cannes. E a Cannes di italiano c'è, mi sembra, la Cardinale un po' ritoccata, ma poco altro, no? È così? No, non è così affatto. È piena di Italia, perché non... Però non ci sono film italiani in concorso? No, però c'è non il concorso principale, ma c'è un film, quello di Castellitto, l'abbiamo detto, sì. Terre Garde, che è una sezione di grande dignità dove ogni tanto va anche Francis Ford Coppola, quindi il problema non è se è o non è in concorso un film, il problema è avere prodotto, e oggi in Italia mi sembra che i grandi players, i grandi produttori siano più concentrati a far televisione o a produrre per canali come Netflix, per esempio, alternativi, cioè per internet piuttosto che... Beh, però Netflix, scusa Pascal, Netflix, se non sbaglio, i film di Netflix sono rifiutati a Cannes, no? Non ancora, quest'anno c'è addirittura Dustin Hoffman che arriva qui con Netflix. La proposta di Thierry Frémaux è l'anno prossimo... Di non averli più. Esattamente, insomma, è una guerra sbagliata, perché vuol dire che se da un lato... proteggere la sala, dall'altro lato... Ma la sala, protegge la sala, secondo me, io credo, non è il mio mestiere direttamente, ma proteggere la sala, non lo so, bisogna proteggere i bei film, cioè fare dei bei film. Poi uno li vede dove li vede, le piattaforme di distribuzione sono una catena che è collegata, insomma è un po' difficile immaginare che si possano difendere i panda. Sì, assolutamente, però insomma, così andando avanti, anche qui sarà la torre di Babele, voglio dire. E non, adesso qui a Cannes il grande problema è venuto alla ribalta alla vigilia con l'hackeraggio del film, ultimo film della questo. Disney, certo. il Pirata dei Caraibi con Johnny Depp, Paul McCartney, il Rolling Stone. Vabbè, non ci saranno più rapimenti di persone, ma di film. Infatti, no, questo è il punto positivo, ieri, diciamo. Ieri ne parlavo con il senatore Todd, che è il presidente della Motion Picture Association of America, che è l'industria cinematografica americana. E allora? E devo dire, sono tutti quanti rimasti molto sconvolti, così come lo rimase 2 anni fa. Vabbè, è una grande novità del banditismo 4, 5, 6, 7.0, infatti, no, una grande cosa. Comunque, ecco, l'Italia ha qui degli artisti straordinari, giovani talenti che poi durante la settimana ci risentiremo. E un'ultimissima cosa: si accettano scommesse sui vincitori? No, ancora presto, troppo presto. Un'ultima cosa, vorrei dare appuntamento ai telespettatori in questo caso, intorno alle 14 e in seconda serata su Iris, dove racconto il dietro le quinte del festival. Vabbè, addirittura facciamo pubblicità. Iris, va bene, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Pietrangelo, oggi cosa ci fai sentire? Amore, baciami, baciami, baciami, e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace stare chiuso in te nel tuo tempo. E batte il cuore. Maggio non passa in vano. C'erano i cieli blu in viaggio stamattina. Erano tutti in metropolitana. Indossavano cravatte spiritose, tutte con motivi di geometrie innamorate di languidi. Sì, ha chiamato Demetra. Ha voluto questo brano proprio nella versione di Ornella Vanoni per il dio Efesto, o Vulcano che dir si voglia, con questo messaggio: mi fabbrichi binari che facciano viaggiare solo baci? Son troppo innamorata. Allora, Mario, che cosa ci fa, su cosa ci fai riflettere stamane? Ma io direi, adesso non ci sarà la fila ridicole su quello e neanche il picco d'ascolti, però è importante, lo diremo, legge elettorale, ma prima un po' di rap. Stilosi come ieri. Cambia il tempo come le pubblicità. Vabbè, questo è Giuliano Palma con Marrakesh, come ieri. Non so se definirlo rap o hip hop, non lo so, in regia non mi... Lo definiamo rap o hip hop, che dici? Hip hop forse, no, non lo so. Vabbè, tu dirai, Giovanni, che dilemmi la mattina. No, perché c'è un altro rap, che è il rap elettorale. Abbassiamo leggermente la musica e facciamo un giochino. Rosatellum, Verdinellum, Consultellum, Italicum, Bis, Mattarellum. Cosa sono? Sono le sigle uscite in queste ultime 48 ore sul dibattito elettorale. Quindi il PD ora cosa ha proposto? Ha cambiato la proposta base e sono tornati all'antico, al sempreverde, al sistema che fu varato nel 93. E cioè il Mattarellum, che correggono nella percentuale, quindi sistema proporzionale 50% e maggioritario 50%. Per fare cosa? Per provare a vedere se poi qualcuno vince, cosa abbastanza difficile. Abbastanza difficile, perché le leggi elettorali dovrebbero fotografare il sistema, e con un piccolo premio o un grande premio aiutarlo, dipende, a rendere governabile, esatto, il paese. Il problema è che in un sistema tripartito questo è tutto più difficile. Senti, Mario, c'è Carlo da Genova che ti fa una domanda. Non è possibile. E dice: se un giornale ottiene, a proposito del tema di prima, se un giornale ottiene un'intercettazione trasmessa illegalmente, è ovvio o non è ovvio che la pubblichi? Dipende da cosa c'è dentro. Ha detto precisamente illegalmente. È ovvio che è colluso con la violazione di legge oppure no? Se è illegale, sì. Cioè ti metti, comunque ti aprono l'inchiesta, questo è sicuro. Potrebbe anche esserci la stessa, come dire, la ricettazione tra virgolette del materiale. Il problema per il giornalista non è da dove lo ottieni. A questo punto non ti puoi neanche chiedere cui prodest è troppo e così via. Ti devi chiedere: quello che c'è dentro è di grande interesse pubblico, è rilevante ai fini della cosa? È questo il punto. Io ho sempre pubblicato tutto. La domanda era un'altra. Salamino! Sono tutte belle le mamme del mondo. Quella di Macron è bella assai più. Non si placano le polemiche. Silvio Berlusconi, da par suo, si lascia andare. Fa una battuta su Emmanuel Macron, il nuovo presidente francese, e nessuno gliela perdona. Bello lui e bella la mamma, dice di Macron e Brigitte. Sono tutte belle le mamme del mondo. Quando un bambino si stringono al cuore. Casca e ci ricasca, zio Silvio. Aveva dato del bello, giovane e abbronzato a Barack Hussein Obama, all'epoca presidente degli Stati Uniti, e tutti sono partiti, lancia e resta, per dargli del razzista. Manco fosse stato, povero cavaliere, il pittore che dipinge l'altare. Io sono un povero negro. Ha appena scherzato su Macron e sulla di lui moglie, ovvero Brigitte, il più grande di 23 anni, ha detto: Macron è un ragazzo brillante, certo, ha avuto la fortuna di una mamma bella che lo porta sotto braccio, e tutti adesso stanno addosso a Berlusconi nel dargli del sessista. A proposito di sessismo, anatomia e superfetazioni, l'ex premier italiano, rinnovando tutta la sua stima ad Angela Merkel, ha categoricamente smentito di averne a suo tempo giudicata male l'avvenenza. E comunque, scherzare si può e si deve. Quello che vale per Macron dovrebbe valere anche per il cavaliere. Tanto sembra fiaba la storia d'amore del presidente francese, quanto invece incappa in anatemi moralisti il leader di Forza Italia. Uno sbertucciato e accusato da accasare una lolita. L'altro, il presidente francese, che è celebrato, in vera in sé niente meno che Umberto Eco, in diario minimo, ovvero, lo ricordate? Nonita. E dunque, con Eco, omaggiando Macron, rileggiamo diario minimo. Nonita, fiore della mia adolescenza, angoscia delle mie notti, nonita, nonita, nonita, tre sillabe come una negazione fatta di dolcezza. Nonita. Oh, Berlusconi non è il Macron d'Italia, di certo, visto la differenza di età con la sua fidanzata, può ben essere considerato come... Chi è Berlusconi? È il Brigitte di Francesca Pascale. Io galippo e tu den grip, se per caso dicono sbatte via, fai a gazzer, fino a che non te lo fa. Ok, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Mix 24. Hai sentito la radio? C'è stata una bomba in una banca, sembra che ci siano tanti morti. Un boato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto l'edificio. Una buca di circa un metro di diametro. Venerdì 12 dicembre del 1969, 17 morti e 90 feriti. È la strage di Piazza Fontana. Le indagini della Questura di Milano puntano sugli anarchici. Vice capo dell'ufficio politico è Luigi Calabresi. Dal suo ufficio vengono fermate 240 persone, tra queste anche gli anarchici Pietro Valpreda e Pino Pinelli. Quest'ultimo, una vecchia conoscenza del commissario, resterà 3 giorni in questura, sospettato per strage fino alla tragedia. Pinelli è precipitato nel vuoto, è caduto su questa aiuola. Lo hanno trasportato all'ospedale, ma le cure dei sanitari sono risultate vane. Lascia la moglie e 2 figlie. Era frenatore delle Ferrovie dello Stato, nella stazione di Porta Garibaldi, aveva 41 anni. Da questo giorno inizia lentamente la morte anche di Calabresi, che diventa oggetto di una spietata campagna di stampa condotta da Lotta Continua, in cui il commissario viene descritto come un poliziotto torturatore, colpevole di aver ucciso l'anarchico Pinelli durante l'interrogatorio. 3 anni dopo, in un clima ancora caldo, il 17 maggio del 1972, 2 killer uccidono Luigi Calabresi, 35 anni, 2 figli e 1 in arrivo. 45 anni di distanza dunque da quel 17 maggio del 72 dedichiamo una puntata alla morte del commissario Luigi Calabresi. Mario, ancora una bolla? Ci abbiamo il tempo? Sì, sì. Allora, vabbè, questi sono bellissimi. Matt Bianco, More Than I Can Bear. Secondo te Macron è populista? Populista? Secondo io non so cosa vuol dire parola populista. Secondo me è populista. Io non so cosa vuol dire, quindi uno non che, ti so rispondere. È uno che usa, diciamo, degli escamotage. Chiunque faccia politica è populista. Ecco, infatti siamo d'accordo. Pensa che prima di nominare i ministri ha detto che lui deve controllare che abbiano pagato le tasse. Ma mi sembra sano. Però, cioè, voglio dire, è una cosa abbastanza... ovvia, ma la vera, che visto che non è vero. La cosa, la cosa, diciamo, nuova, tra virgolette, è l'enfasi che lui dà sulla comunicazione e su questo tipo di comunicazione. Quindi, diciamo, dipingere Macron come l'europeista, tutto establishment che ha vinto e dunque salverà l'Europa senza populismo è sbagliato. Vabbè, l'establishment populista, l'europeismo populista. E l'establishment adesso... populista non è male, la riuso. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine gennaio 2017. TAC al torace e screening per il cancro al polmone. Tre articoli su JAMA Internal Medicine per capire se vale la pena nei pazienti a rischio sottoporsi a TAC torace per scoprire precocemente un possibile cancro. Questo dopo le raccomandazioni recenti della Task Force statunitense sulla prevenzione che raccomandavano la TAC torace nei pazienti ad alto rischio. Chi sono i pazienti ad alto rischio? Sono i forti fumatori con più di 30 sigarette al giorno e quelli che hanno smesso di fumare, essendo forti fumatori, ma hanno smesso di fumare da meno di 15 anni, che è un po' la finestra dove il rischio poi si abbassa. Le conclusioni sono che è un esame che costa. Costa perché il personale costa e ci sono spese vive. È un esame che poi scarsamente preferito dai pazienti a rischio, quanti ne conosciamo che preferiscono non sapere. Da molti falsi positivi, con il corteo di esami anche pericolosi che devono essere fatti successivamente. Per capirci cosa succede, ogni 1000 pazienti screenati con l'attacco al torace, 10 vengono diagnosticati con un cancro al polmone potenzialmente trattabile. 5 hanno già un cancro che è incurabile, 20 avranno una positività dubbia e che quindi dovranno avere procedure ulteriori, spesso invasive e spesso appunto pericolose. E per finire, 550 dei 1000 passeranno un periodo di ansia. Queste sono le condizioni che aiutano chi è che è in quella situazione per decidere se farselo l'esame o meno. Io me lo farei. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi ha la forza di promettere di essere lì, nell'unione dei cuori. Ron, non abbiamo bisogno di parole. Adesso vieni qui e chiudi dolcemente gli occhi tuoi. Vedrai che la tristezza passerà. Il resto poi chissà, verrà domani. Voglio star con te, baciare le tue labbra, dirti che in questo tempo dove tutto passa, dove tutto cambia, noi siamo ancora qua.